cometa già vedo. Ti spinge il tuo dimone, e il tuo dimon son io, e me trascina il mio, nel quale credo in esserrata in Dio. Che m'ha creato simile a sé, e che nell'ira e amore dalla viltà d'un germe o d'un atomo vile son nato, son scellerato perché son uomo e sento il fango originario in me. Confermo cor, siccome crede la vedo bella al tempio, del mal che io penso che da me procede per mio destino adempio. Giusto è un istrion beffardo, e nel viso, nel cuor, è tutto che lui bugiardo, lacrima, bacio, sguardo, sacrificio e dolor. E credo gli uom, gioco di tua sorte, dal genere Che vecchia cuore in cielo.